Splende ancora in cielo un grande sole, mentre passa una stagione e noi rimaniamo qui. Tu sorridi e cresci come un fiore, e in ogni cosa che si muove cerchi solo amore. L'estate non è fatta per finire, perlomeno adesso, e dentro la purezza del tuo sguardo ho ritrovato tutto. Settembre, scordati di noi, non ci portare via l'estate. Settembre, scordati di noi, almeno un anno se puoi. Tu sei nata ieri, hai già capito l'importanza di un sorriso e di un amico. L'estate non è fatta per svanire, perlomeno adesso, e noi non siamo pronti a ritornare, è ancora troppo presto. Settembre, scordati di noi, non ci portare via l'estate. Settembre, scordati di noi, almeno un anno se puoi. Settembre, non ci prenderai così, ci vedrai correre lontano come chimere all'orizzonte, all'orizzonte, andare mano nella mano. Settembre, scordati di noi, vogliamo ancora questo mare che resterà un ricordo scolpito dentro il nostro cuore. Settembre, scordati di noi, non ci portare via l'estate. Settembre, scordati di noi, almeno un anno se puoi. Se puoi.